Platone, Repubblica, libro nono. E cominciai quindi. Rimane precisamente l'indagine sull'individuo tirannico, come cioè derivi dall'individuo democratico e, una volta derivato, quali le caratteristiche e quali ne sia il tenore di vita, felice o sventurato. Eh sì, manca proprio lui. E sai ancora, domandai, cosa mi manca? Che cosa? Non mi pare che la trattazione sui desideri, quali sono e quanti, sia stata sufficientemente condotta. E se questo punto non è perfettamente determinato, l'indagine che stiamo perseguendo riuscirà certo un po' oscura. E non si può completare? Oh, senza dubbio. Sta un po' attento a quello che voglio concludere in proposito. È la seguente osservazione. Tra i piaceri e i desideri non necessari, mi pare che taluni siano contrari a ogni legge, certo innati in ognuno di noi. Intervenendo tuttavia il freno delle leggi e dei buoni desideri, e aggiungendosi l'opera di ragione in alcuni individui, questi sfrenati impulsi finiscono per essere interamente eliminati, oppure rimangono pochi di numero e deboli. In altri individui, invece, tali impulsi divengono più vigorosi e più numerosi. Ma quali sono, secondo la tua opinione, questi impulsi? E io? Sono quelli che si destano durante il sonno, quando le altre facoltà dell'anima riposano, facoltà razionali di tono mite e morali, capace di impero e di dominio. Allora l'istinto della fiera selvaggia, satollato di cibo e di bevande inebrianti, balza, caccia il sonno e cerca di andare in giro e di saziare ogni cupidigia. Immenso ne è l'ardire e qualunque atto egli compie. Ogni senso di pudore o di prudenza abbandona e se ne sente disciolto. Non esita fantasticando a congiungersi con la madre, con qualsiasi uomo, con dei, con bestie. Ardisce commettere qualsiasi delitto o scempio. Non si tiene lontano da nessun cibo. Insomma, non lo trattiene follia, non imprudente azione. Rispondeva, hai ragione. Invece, credo, si può trascorrere l'esistenza informandola in temperata armonia. Con norme sane e semplici ci si può concedere il sonno e il riposo mentre ancora è desta e attiva la facoltà razionale. E questa facoltà nutriremo con elevati ragionamenti e con indagini belle, non trascurando l'esame interiore e la meditazione. D'altra parte, non abbandoneremo concupiscenza del tutto insoddisfatta e nemmeno saziata interamente. Così, concupiscenza può addormentarsi e non più produce, con sue impressioni di gioia e di dolore, turbamento e confusione a danno di facoltà perfetta, che invece sarà libera di meditare, per conto suo, del tutto pura nella sua visione, libera di aspirare a percezioni intellettive nuove e sconosciute nel presente dei tempi, nel passato o nell'avvenire. In pari guisa, anche l'impeto impulsivo e irascibile del carattere sarà fatto mite e placato. L'uomo, insomma, non perviene alle regioni del sonno con l'animo agitato. Nessun impeto d'ira turba quel cuore. In conclusione, le due facoltà, concupiscibile e irascibile, sono state poste in pace e la terza, quella in cui è presente spiritualità di vita, è desta e viva. E in queste condizioni di spirito l'uomo si accinge al riposo. Puoi star sicuro, quell'uomo attinge verità e le visioni dei suoi sogni non sono affatto contrarie ad ogni sanzione di legge. Sono del tutto convinto. Trattando di questo, ci siamo lasciati andare a una digressione più lunga di quanto si voleva. Il punto, tuttavia, che si doveva porre in luce è il seguente. Ciascuno ha in sé, persino quelli che hanno indiscutibile apparenza d'essere uomini misurati e per bene, una specie violenta, selvaggia e illegale di desideri e di passioni, specie illegale e violenta che si fa manifesta nei sogni. Osserva dunque se ti pare che io abbia ragione E se sei d'accordo con me? Sono d'accordo. Tieni dunque presenti le caratteristiche dell'uomo democratico. Come ben ricordi, la sua origine proveniva da un uomo educato fin da giovinetto per opera di un padre parsimonioso. Questo padre teneva unicamente in pregio i desideri capaci di produrre guadagno e denaro. Disprezzava invece i piaceri non necessari, la cui origine è nel divertimento e nel lusso. Non è vero? Sì. Costui si trova insieme ad uomini più complicati e tutti dediti a quelle passioni e a quei desideri di cui ora si disse. Si butta a capofitto, per antipatia alla parsimonia paterna, a compiere ogni insolenza e accetta le abitudini di questa gente. D'altra parte, possiede una natura più nobile di coloro che lo corrompono. Viene trascinato verso una direzione e verso l'altra. S'arresta in un punto intermedio tra l'uno e l'altro modo di vita. Così quell'esistenza trascorre non ignobile e non illegale, in quanto egli fa esperienza dell'uno e dell'altro modo. È divenuto con ciò, da uomo oligarchico, un uomo democratico. Sì, rispondeva, era questa ed è tuttora la nostra opinione su quest'uomo. E allora un'altra supposizione. Costui diventa anziano e ha un figlio giovane, allevato secondo i suoi sistemi. Suppongo. Devi continuare a supporre che quanto è avvenuto al padre avvenga pure al figlio. Anche lui è spinto a quel disordine che i suoi amici chiamano libertà assoluta. E il padre e gli altri di casa cercano di sostenerne le passioni di carattere intermedio. Quei suoi amici che lo guidano fanno invece opera contraria. Quando poi questi incantatori terribili e questi artefici di tirannide comprendono che non riusciranno in altro modo a possedere il giovane, cercano allora di far nascere in lui un certo amore, capo e protettore di quelle cupidigie e di quelle oziose, prodighe passioni, un alato e grande fuco. O credi tu che l'amore in uomini come questo giovane possa apparire diverso? No, disse lui, non più di questo. Allora, ecco le altre passioni intorno al loro duce con incessante ronzio e continuo rombo, stillanti profumo ed essenze odorose, piene di fiori, di vini pregiati, di piaceri che sono caratteristici a simili società, piaceri dissoluti. E queste passioni, mentre fanno crescere quest'amore al grado estremo e generosamente lo alimentano, consegnano poi a lui, al fuco, il pungiglione del desiderio. In questo momento una turba di folli pensieri gli si mette d'intorno, vera e propria personale milizia, e allora questo duce dell'anima sale in furore. Se incontra in quel giovane opinioni o passioni ritenute buone e riservate, il duce le uccide e le caccia fuori della propria dimora. Si fa allora un'epurazione contro interiore armonia temperata e tutto è pieno di estranea follia. Proprio così, rispondeva, stai dicendo effettivamente la formazione di un uomo tirannico. E non si dice forse, ripresi, per questo motivo appunto, fin dai tempi più remoti, che l'amore è un tiranno? Forse, rispondeva. E non è affermazione vera, amico caro? Anche un uomo inebriato, del resto, nutre in sé carattere tirannico. Sì, lo nutre. Appunto, il folle, o chi non ha il cervello del tutto in ordine, cerca di imperare non solo sugli uomini, ma anche sugli dèi, e nutre in sé convinzione di essere adatto a questa funzione. Non c'è dubbio, rispondeva. E l'individuo, dissi, egregio amico mio, diventa dunque perfettamente tirannico quando, o portato dalla sua stessa natura, o dall'abitudine, o dall'uno e dall'altro fattore, si dà in braccio all'ebbrezza, agli amori, e umor nero di follia viene formandosi in lui. Non c'è dubbio. Hai veduto così per qual modo il nostro uomo diventi un tiranno. Ma poi cominciai. E quale il tono della sua vita? Ma questo Come dice chi fa il gioco, me lo devi spiegare proprio tu. E te lo spiego, rispondevo. Credo infatti che in questo momento cominci, presso il nostro uomo e presso i suoi compagni, la serie dei bagordi e delle feste, la pazza gioia, e amiche e donne e altri simili ingredienti, tutte cose che amore ricerca, tiranno di interiore dimora. Con questo mezzo governa ogni facoltà dell'anima. Non ci si sfugge, rispondeva. E non credi che passioni infinite e tremende germoglieranno ogni giorno, ogni notte, al ceppo della prima, avide e insaziate? Infinite, certo. Allora tutto si spende, ogni rendita va in fumo. Come no? E dopo cambiali e prestiti e sequestri giudiziari. Sì, e poi? Poi, quando finalmente sei arrivati al fondo e il denaro manca, ineluttabilmente sorge grido di queste passioni, fitte e violente, che hanno fatto nell'anima il nido. L'uomo tiranno, intanto, i suoi compagni, sono agitati dai pungiglioni d'ogni passione, e soprattutto dai pungiglioni d'amore, il duce di tutte le altre passioni che a lui fanno scorta. E l'uomo e i suoi compagni saranno in perenne agitazione e saranno sempre allerta se qualcuno fornito di ricchezza possa offrire il destro a spoliazioni per inganno o per violenza. Sì, purtroppo, rispondeva. L'uomo deve trovare denaro da qualsiasi fonte oppure sottostare a sofferenze e a tormenti gravissimi. Non ci si sfugge. Avviene allora che, come i piaceri peregrini avevano in lui esercitato sopraffazione sugli antichi e avevano preso a violenza la parte di quelli, così anche lui pretenderà, pur essendo più giovane, di possedere in copia maggiore che non il padre e la madre, e il giorno in cui avrà consumato la propria sostanza cercherà di prendere a violenza anche la parte che spetta ai genitori per dilapidare anche questa. E cosa avverrà poi? Nel caso in cui non glielo concedano, non credi tu che intanto comincerà col rubare i genitori e con l'ingannarli? Non v'è dubbio. E se questo non gli riesce, non ricorrerà alla rapina e alla violenza? Credo, rispondeva. E se il vecchio padre o la vecchia madre fanno resistenza, quell'uomo avrà forse qualche scrupolo o ritegno di commettere operazione tirannica contro gli autori della sua vita? Oh, disse lui, non mi sentirei molto sicuro per i genitori di un uomo simile. Ma, Adeimanto, mio caro, non credi che questo nostro uomo sarebbe pronto a percuotere suo padre e sua madre, pronto a far di tutto perché, nel momento in cui gli piacesse condurre nella stessa loro casa un amico o un'amica, suo padre e sua madre diventassero i servi dell'uno o dell'altra? E si tratta d'una recente amica, d'una relazione con estranei, e sua madre gli è cara da tanti anni e ha lo stesso suo sangue. Si tratta di qualche bel ragazzo, conoscenza recente e non certo dovuta a legami di nascita. E suo padre è avanti negli anni. Anche lui ha lo stesso sangue del figlio, il vecchio padre, ed è l'amico dei primissimi anni. In nome del cielo, purtroppo, disse lui. Oh, è proprio grande la felicità quando, replicai, si dà la vita a un figlio di natura tirannica. Sì, rispondeva. Senti, può avvenire che le sostanze del padre e della madre vengano a mancare al nostro giovinetto. Frattanto innumere in lui l'accolta dei piaceri sfrenati, uno sciame. Ecco allora comincia a tentare il muro di qualche casa, oppure la veste di qualche viandante nel cuore della notte. In un secondo momento farà pulizia di qualche tempio, e mentre compie tali prodezze, quelle passioni, da poco liberate da schiavitù, col consenso d'amore, opprimeranno opinioni che il giovane nutriva in sé fin dalla prima infanzia, sul bello e sul brutto, opinioni ritenute giuste e buone. E saranno precisamente quelle passioni malvagie, in un primo momento disciolte soltanto in sogno, nei giorni in cui era sottoposto alle leggi al padre suo, quando il suo carattere era ancora democratico. Adesso invece è sottoposto alla tirannide d'amore. Assai di rado e soltanto in sogno perdeva ogni freno. ma ora, desto, diventa continuamente un senza legge, un senza freno, e non avrà scrupoli di nessun genere, non avrà paura di somministrare cibi avvelenati, nessuna paura di diventare omicida. In lui, amore, vero tiranno, che nell'anima conduce sua vita sfrenata e senza legge, amore unico sovrano, condurrà colui che in sé lo nutre, come già la città, per vie di sfrontato ardimento, onde poter sostentare se stesso e la turba intorno a sé schiamazzante. E sarà turba penetrata in lui dal di fuori, con l'aiuto dei compagni malvagi. Ma sarà anche una turba proveniente da dentro, sollevata e scatenata, identica di costumi e di eguali disposizioni. Non è questa forse la vita del nostro giovane? Questa, senza dubbio, rispondeva. Nel caso che ci sia poca gente di questo genere, e nel caso che gli altri abbiano moderazione, questi uomini tirannici vanno in esilio, prestano servizio presso un altro tiranno, oppure vengono assoldati come mercenari nell'evenienza di qualche guerra. Se invece non c'è guerra, ma si trovano a vivere in tempo di pace nella loro stessa patria, commettono ogni sorta di delitti, cose da poco. Quali delitti intendi? Cosa vuoi? Rubano, forano muri, tagliano borse, portano via vestiti, spogliano templi, fanno schiavi. C'è anche possibilità che si mettano a far la spia se sono abili di parole. Inoltre, false testimonianze e corruzione completa nell'esercizio dei loro uffici. Già, vorrei dire che questi delitti sono cose da poco, se pochi sono gli uomini di tal fatta. Eh no, dissi, sono delitti piccoli in confronto ai grandi. E questi cui accennavano non toccano nemmeno il segno, come si dice. Se li confronti tutti con la malvagità del tiranno e con la infelicità dello Stato. Quando questa gente è molta in una città e può trovare chi è disposto a seguirli, quando si rendono conto del loro numero, allora, complice la stolta dabbenaggine del popolo, proprio costoro ingenerano quale tiranno l'uomo che tra tutti abbia in se stesso, dentro l'anima, la più grande e la più completa caratteristica di tiranno. Certo è possibile, rispondeva, un simile uomo è molto adatto a diventare tiranno. Allora, se cedono spontaneamente, ma se la città non ne vuol sapere, fa come nel caso di prima. Prima opprimeva padre e madre, ora opprime la patria sua, se gli riesce. Condurrà dentro nuovi amici e con loro aiuto l'antica e pura madre e madre sua, la patria, egli terrà in servitù, e questa è consumazione di rovinosa passione nel nostro giovane. Su questo punto non c'è dubbio. Del resto, la vita di questa gente, prima di arrivare al potere, non è molto diversa da quanto ti dirò. Intanto s'associano sempre con adulatori, persone disposte a prestar servizio, pronti per conto proprio a prosternarsi con quelli di cui hanno bisogno, né vi è forma di servilismo da cui si astengano. Una volta poi ottenuto l'intento, pronti a mutare, gente di casa poco fa, estranei ora, purtroppo. E quell'esistenza intera trascorre senza che siano capaci mai di farsi un amico. Sempre opprimere qualcuno o servire a un altro. La tirannica natura non conosce né libertà né vera amicizia. Non c'è dubbio. E non abbiamo ragione di chiamare costoro gente senza fede? Come no? Anzi, li diremo ingiusti, seppure abbiamo concluso senza errore poco fa la nostra definizione di giustizia. Oh, in quanto a questo, abbiamo concluso bene senza dubbio. Riepiloghiamo dunque, seguitai. Trattasi dell'uomo interamente malvagio. È un uomo, sai bene, che sveglio corrisponde al profilo già da noi delineato dell'uomo che sogna. Non c'è dubbio. E costui diventa tiranno quando, essendo già tiranno per natura, arriva lui solo al potere. anzi, quanto più gli riesce di durar quale tiranno, tanto più la sua malvagità s'accresce. A questa conclusione non si sfugge, esclamò Glaucone, ritornando a prender parte diretta al discorso. E non credi allora, ripresi io, che chi ci appare tanto malvagio ci apparirà anche sommamente sventurato? E chi, per un tempo più lungo, abbia esercitato in modo più completo la tirannide, non credi che costui sarà completamente sventurato e per un tempo più lungo? Il volgo ha in genere idee diverse su questo punto. Non si sfugge, rispondeva, è proprio come dici. Ma, ripresi, l'uomo tirannico ha somiglianza con la città sottoposta a regime tirannico, l'individuo democratico con quella democratica, e gli altri lo stesso. Sì, e poi? Poi voglio dire che il rapporto tra le singole costituzioni, considerandone virtù e benessere, è lo stesso di quello che intercede tra i vari tipi di individui. Come no? E quale, se si considera la virtù, il rapporto di una città tiranneggiata in confronto alla città governata da un re, conforme a quanto prima abbiamo esposto? Oh, il contrario semplicemente, rispondeva. L'una è ottima, l'altra pessima. E non ti starò a domandare, continuai, quale delle due sia ottima e quale pessima. La cosa è chiara, e il tuo giudizio è, credo, parimenti sicuro anche sul benessere, sulla felicità e sul suo contrario. O pensi forse che non sia così? Certo, non dobbiamo lasciarci sviare, considerando soltanto il tiranno, che è uno solo, e quei pochi che ne formano il seguito. Al contrario, per comprendere i fatti, dovremo penetrare per tutta la città, ne dovremo considerare tutti gli aspetti, e solo dopo attenta osservazione esprimere la nostra sentenza. Giustissimo, rispondeva, la tua richiesta è più che giusta, ed è chiaro che non vi è città più sventurata di quella sottoposta a un tiranno, felicissima invece la città regale. E se facessi la medesima richiesta a proposito di individui singoli, non avrei forse ragione? Insomma, richiedo che su questo argomento soltanto possa pronunciar giudizio colui che ha modo col pensiero di penetrare nell'interiorità di un carattere, di distinguere bene le cose, colui che non guarda dal di fuori e non resta colpito come un bimbo per la pomposa esistenza del tiranno. Oh, è una pompa codesta ad uso degli estranei. È necessario, insomma, distinguere bene le cose. Ritengo che si debba prestar solamente ascolto a chi è capace di giudicare, a chi ha fatto vita in comune col tiranno, a chi ebbe modo di assistere il tiranno nei singoli momenti della sua vita, proprio tra le pareti domestiche, e ha visto quindi come il tiranno tratta coi suoi familiari. Sono questi i momenti in cui egli appare ignudo d'ogni sua pomposa grandezza, così pure i momenti di pubblico pericolo. Insomma, vorrei che questa persona vedesse in tali momenti il tiranno e ne riferisse la vera condizione rispetto agli altri, se felice o sventurata. Giustissima davvero sarebbe questa tua richiesta. E cosa penseresti, dissi io, se affermassimo d'essere proprio noi gli uomini in grado di pronunciare giudizio in proposito, noi gli uomini che ci siamo imbattuti in simili evenienze? Così avremo modo di dare una risposta alle nostre domande. Non c'è dubbio. Sovvia dunque, attento. Mi devi dire le condizioni sia dello Stato che dell'individuo, uno dopo l'altro, tenendo presente identità tra Stato e individuo. Quali condizioni? Intanto, dissi, per cominciare con lo Stato, chiamerai tu libera o serva la città tiranneggiata? Serva, esclamava, in grado sommo. Eppure vi puoi vedere padroni e uomini liberi. Sì, ne vedo, rispondeva, ma ben piccola cosa. Quasi tutti i cittadini, per così dire, e anzi le persone più cospicue, sono ignobilmente e miseramente serve. Se dunque, continuai, un individuo singolo è eguale alla città, necessariamente dovrà presentare la medesima condizione. L'anima sua, piena di servitù infinita, piena di sentimenti ignobili e indegni di un libero, schiave quelle facoltà che sono ottime, ed eserciteranno dominio facoltà piccole, le più cattive e le più folli. A questa conclusione non si sfugge, rispondeva. Senti allora, e dirai che tale anima è libera o è schiava? Schiava, non c'è dubbio. E non è vero che una città schiava e tiranneggiata non è in condizione di fare ciò che vuole? Certo. Anche l'anima tiranneggiata non farà quindi per nulla ciò che vuole, e intendo l'anima nella sua totalità. Al contrario, come da un assillo trascinata a violenza, sarà grondante di scompiglio e di rimorso. Come no? E la città tiranneggiata sarà necessariamente povera o ricca? Povera. E allora, necessariamente, anche l'anima tirannica deve essere povera e insaziata. Così, disse lui. Senti allora, non dovrà necessariamente essere piena di terrore, così la città come l'individuo? Sì, è molto. E credi di poter trovare presso qualche altra città, in numero più grande che presso questa, lamenti, gemiti, pianti e sventure? Per nessun modo. E, considerando l'individuo, credi di trovarne più numerosi presso qualche altro uomo che presso il folle, per passioni e per amori, l'uomo, insomma, tirannico? Come potrei credere diversamente? Considerando tutti questi fatti e altri del genere, hai concluso che quella città è la più infelice tra tutte. E non avevo ragione? Rispondeva. Certo, ripresi, ma per l'individuo tirannico, qual è la conclusione, se consideri questi medesimi fatti? Di gran lunga, rispondeva, il più sciagurato di tutti. Su questo punto, dissi, non ti esprimi ancora bene. Perché? Disse lui. Non credo, risposi, che costui rappresenti il grado supremo. Ma, insomma, perché? Questo che ti dirò mi pare uomo più sciagurato. Quale? Colui che, continuai, essendo individuo tirannico, non vive vita oscura. Colui che, sventurato, trova occasione di diventare, per qualche disgrazia, tiranno veramente. Desumo verità di tua asserzione, rispondeva, da precedenti conclusioni. Sì, dissi, ma non basta soltanto una congettura quando si tratta di simili questioni. Bisogna considerare chiaramente la cosa valendosi di un argomento come quello che userò io. L'indagine, del resto, volge su questione di straordinario interesse. Qual è la vita buona? Quale la vita cattiva? Hai ragione, rispondeva. Osserva dunque se va bene così. Mi pare infatti che chi indaga su questo problema debba desumere il proprio giudizio da un tipo di persone come queste. Quali? Dalle persone, singoli cittadini, che sono doviziose nelle città e posseggono molti schiavi. Costoro si trovano in condizione del tutto simile a quella dei tiranni, governano su molte persone. Una sola differenza, la quantità, che è maggiore per il tiranno. Già, c'è differenza. Non sai che questi padroni vivono senza timore e non temono i loro servi? Già, e cosa dovrebbero temere? Nulla. Ma ne sai la causa? Sì, perché l'intera città è pronta a correre in aiuto al singolo cittadino. Benissimo, hai ragione, dissi. Ma senti, supponi che qualche iddio portasse via dalla sua città un certo personaggio, uno di quelli che hanno 50 schiavi o anche più. Lo mette, lui, la sposa e i figli, supponi, in un deserto, e quello si porta ogni avere e quindi anche i servi. In tale luogo nessun uomo libero può venire a portargli aiuto. E adesso come la pensi? Quanta non sarà la paura di quell'uomo? La sua vita, i figli, la sposa e i servi li potrebbero uccidere. Paura, e molta, disse lui. E allora dovrebbe ricorrere a lusinghe e adulazioni coi suoi stessi servi, ricorrere a promesse d'ogni genere a dar la libertà, pur non volendolo. certo apparirebbe adulatore dei suoi stessi servi. Sì, necessariamente, rispondeva, in caso contrario c'è la sicura rovina. Senti, ripresi, supponi che il Dio mettesse a dimorare attorno a lui molti altri, ma costoro, supponi, non vogliono saperne che uno cerchi di fare il padrone su altri uomini. Anzi, se arrivano a cogliere che fa così, ricorrono a pene gravissime. Allora, rispondeva, il nostro personaggio si troverà al colmo della sciagura. Nemici intorno d'ogni genere lo stanno spiando. E non credi che il tiranno sia legato in un simile carcere? La sua natura è quella che abbiamo esposto, piena di terrori, di desideri multiformi e senza numero. Se poi l'anima sua è curiosa e avida di distrarsi, a lui solo, tra tutti i suoi concittadini, non si concede di andare all'estero mai. Non è concesso vedere tutte quelle cose di cui gli altri uomini liberi si dilettano tanto. Deve starsene tappato in casa e vivere per lo più come una donna. Di qui invidie continue verso quei cittadini che fanno qualche viaggio e vedono cose belle. È proprio così, rispondeva. In conclusione, dato questo cumulo di sciagure, ne coglie il completo frutto un uomo che, albergando in sé, nella sua interiorità, un cattivo governo, un uomo tirannico, insomma, non debba poi vivere una vita d'uomo comune e privato, ma sia condotto da qualche evento a far veramente il tiranno. Costui comincia a non avere un dominio di se stesso, eppure tenta di esercitare su altri un dominio, simile in tutto a persona di costituzione inferma, le cui forze non bastino nemmeno per lui. Una persona che in tale stato non pensasse a sé, ma fosse costretta a venire in gara di lotta con altri e a passare l'esistenza sempre combattendo. Sì, rispondeva, dici una cosa che corrisponde perfettamente ed è assai vera, o Socrate. E allora, mio caro Glaucone, si tratta di un'esistenza totalmente sciagurata, e chi arriva ad esercitare effettivamente la tirannide vive in modo più misero di chi, secondo il tuo giudizio, vive in modo pur miserrimo. Senza dubbio, diceva. In conclusione, anche se a qualcuno non sembra, il vero tiranno è schiavo, in preda alle più grandi adulazioni, del tutto schiavo per servitù assoluta. È adulatore dei birbanti, è incapace di saziare in qualche modo le sue passioni, è privo di moltissimi beni. Si dimostra povero a uno sguardo profondo, uno sguardo che sappia considerare l'anima del tiranno nella sua totalità, e pieno poi di terrori durante tutta la vita, colmo di palpiti ansiosi, di sentimenti d'angoscia, condizioni non strane, seppur l'uomo deve essere simile alla città nella quale esercita il potere. E veramente simile egli è, non è vero? Oh, certo, esclamò lui. Resta dunque che attribuiremo al nostro personaggio anche le condizioni che prima si dicevano. Necessariamente egli è, e ancor più diviene, in quanto esercita la sua autorità, un uomo invidioso, malfido, ingiusto, privo d'amici, empio, ricettacolo e vivaio d'ogni malvagità, vizi tutti e colpe che rendono lui sventurato, ma ben sventurati anche quelli che gli vivono accanto. Nessuno, rispondeva, ti farà obiezione, seppure comprende come stanno le cose. Ebbene, seguitavo io, ora finalmente, come fa il giudice supremo degli agoni drammatici, anche tu allo stesso modo stabilisci la graduatoria. Secondo il tuo giudizio, chi è primo se si considera una condizione di felicità? Chi secondo? E gli altri tutti cinque, quanti sono? Giudicali in ordine: uomo regale, uomo timocratico, oligarchico, democratico, tirannico. Ma facile è il giudizio d'arbitrato. Nell'ordine secondo il quale essi avanzano, come fossero i cori nel teatro, così li giudico per virtù e per malvagità, per felicità e il suo contrario. E allora, via, assoldiamo un araldo, esclamai, o piuttosto io stesso proclamerò che il figlio di Aristone ha pronunciato giudizio. il migliore, il più giusto e il più felice, colui che può insomma esercitare in se stesso dominio regale. Il pessimo invece, il più ingiusto, il più sciagurato, è l'uomo veramente tirannico, l'uomo che, come tale, tiranneggia se stesso e la sua patria. È già proclamato, rispondeva. E debbo aggiungere quest'altra clausola? Continuai. Poco importa che di questa condizione abbiano notizia o anche non l'abbiano, dei e uomini. Aggiungi pure. E va bene, conclusi. Questa dimostrazione è la prima. Sta attento alla seguente e sarà la seconda. Guarda se ti pare che abbia qualche efficacia. Di che si tratta? Siccome, risposi, abbiamo già distinto tre classi nello Stato, e siccome l'anima d'ogni uomo si può dividere pure in tre potenze, ne risulta, come mi pare, la possibilità di un'altra dimostrazione. Quale mai? La seguente. Trattandosi di tre potenze, mi sembra che tre siano anche i piaceri, un singolo piacere corrispondente per ciascuna potenza. E i desideri parimenti sono tre, e tre pure sono i poteri che governano quei desideri. Come intendi? Abbiamo visto che vi è una potenza con cui l'uomo apprende, un'altra che presiede all'impeto volitivo e irascibile. La terza ha innumerevoli aspetti e perciò non ci fu concesso di chiamarla con un nome particolare. Il nome lo si desume dall'aspetto suo più caratteristico e più deciso. L'abbiamo chiamata facoltà concupiscente per la violenza con cui l'uomo concupisce il cibo, il bere, l'amore e altri appetiti del genere. Del resto, si potrebbe chiamarla anche facoltà concupiscente di possesso e di denaro. In realtà, la ricchezza è mezzo che dà attuazione a concupiscenze e a passioni. Va bene, rispondeva. E se dicessimo che il piacere di questa potenza è l'agognata sua meta e il guadagno, si potrebbe sintetizzarne con parola chiara la caratteristica e ci si potrebbe esprimere in modo preciso ogni volta che vogliamo accennare a questa facoltà dell'anima. La chiameremo, insomma, facoltà amante di ricchezza o di guadagno. Andrebbe bene? A me pare di sì, rispondeva. Senti allora. E la facoltà impetuosa e impulsiva dell'irascibile, non diciamo forse che è tutta rivolta a dominare, a vincere, ad acquistar fama? Certamente. E se questa facoltà la chiamassimo facoltà amante di emulazione oppure ambiziosa potenza, non andrebbe forse bene? Oh, benissimo. Invece, ed è ben chiaro ad ognuno, la facoltà con cui possiamo apprendere è tutta rivolta a conoscere come sia la verità. A lei non interessa né denaro né fama. Sì, certo. E questa facoltà la potremo giustamente chiamare facoltà amante di sapienza e di conoscenza. Come no? E non è forse vero che nelle singole anime, per certi uomini, impera una facoltà, per certi altri un'altra, secondo che capita ora l'una, ora l'altra? Così, sì, rispondeva. Per questo motivo, diciamo intanto che tre sono i tipi essenziali degli uomini: amanti di sapienza, cioè filosofi, amanti di emulazione, amanti di guadagno. Sì, e senza dubbio, e che ci sono anche tre specie di piaceri, corrispondenti ciascuna ai tre tipi di prima. Ma certo. E puoi essere anche certo che se tu volessi rivolgere domanda a tre uomini di questi tre tipi, un uomo dietro l'altro, e se chiedessi qual modo di vivere sia il più bello, ciascuno per conto suo innalzerà con ogni lode il proprio. L'uomo amante del guadagno ti dirà certamente che, di fronte al guadagno, scompare ogni bellezza di successi e di onori, ogni bellezza di cognizioni e di dottrine acquisite. Escluso naturalmente il caso che successi, onori, cognizioni e dottrine siano suscettive di produrre denaro. Vero, rispondeva. E cosa farà l'uomo amante di emulazione? Certamente considererà rozzo e volgare il piacere proveniente dal guadagno E così pure il piacere della cognizione e dello studio. Lo studio non porta successo, non porta onore, fumo e chiacchiere. È proprio così, rispondeva. E il filosofo? Domandai. Come giudicherà gli altri piaceri in confronto a quello di conoscere la verità? Al piacere d'attendere a quest'unica occupazione, sempre studiando e imparando. Certo in nessun conto, e certo chiunque ama sapienza chiamerà necessari questi piaceri, perché non crede di sentire, a meno di straordinarie necessità, bisogno di altre cose. Si deve ritenere che sia proprio così. Veniamo a noi, ora. Quando si discute sul piacere che ciascuna specie può arrecare e sul tipo di vita a lei caratteristico, non soltanto se sia più bello o più brutto vivere in un modo o nell'altro, o se sia meglio o peggio, ma bensì se si discute sul grado di felicità o di infelicità che ne ridonda sulla vita, come potremmo conoscere chi ha ragione tra questi tre uomini? Ma non saprei dire. Sta un po' attento. Secondo quale criterio si deve procedere se si vuol giudicare bene una cosa? Non forse basandosi sull'esperienza, sull'intelligenza e sul ragionamento? Ci potrebbe essere criterio migliore di questo? E come vuoi che ci sia? Osserva allora. Ci sono tre tipi di uomini. Quale avrà esperienza di tutti i piaceri? Forse l'uomo avido di guadagno? Ti pare proprio che se costui pur si decidesse a cercare l'essenza della verità, sarebbe esperto del piacere proveniente dalla conoscenza, più che non il filosofo lo sia invece del piacere proveniente dal guadagno? No, rispondeva, c'è molto divario. L'uno deve fin dai primi anni avere esperienza anche degli altri piaceri, l'altro invece, uomo amante di guadagno, ammesso che si rivolga a meditare sul mistero degli enti, non deve necessariamente gustare la gioia di questa meditazione, né può intendere quanto sia soave. Direi di più, non gli è concesso attingerne esperienza, pur ammettendo che il desiderio sorga in lui. Insomma, ripresi, enorme è la superiorità del filosofo sull'uomo avido di guadagno, se si considera l'esperienza dell'uno e dell'altro piacere. Certo, differisce molto. E per l'uomo avido di successi e di onori, ti pare che il filosofo, quando si tratta del piacere proveniente dalla rinomanza, sia più inesperto dell'uomo che ama questa rinomanza, e che costui possa dire una parola più definitiva sul piacere proveniente dal pensiero? Ma, rispondeva, la rinomanza veramente consegue a tutti e tre, purché naturalmente compiano bene la funzione a ciascuno caratteristica. È un fatto, il ricco, il valoroso, il sapiente ricevono da molti tributo d'onore. Ne consegue che, se si tratta di stima e d'onore, tutti ne hanno esperienza, e così pure hanno esperienza del piacere che ne deriva. Al contrario, non è concesso ad altri, se non al filosofo, gustare la visione dell'essere ed sperimentare quale immenso gaudio in sé apporti. Si conclude allora, continuai, che se si tratta d'esperienza, il giudizio del filosofo è il più completo. Certo, sì, ma inoltre è l'unico esperto per mezzo di una visione intellettuale. Sì, ma in ogni modo, voglio dire che lo strumento stesso col quale si può pronunciare questo giudizio non può essere in possesso dell'uomo avido di guadagno, come pure nemmeno dell'uomo ambizioso, bensì dell'uomo filosofo. Quale strumento? Si affermava che il giudizio si deve formulare per mezzo del ragionamento, non è vero? Sì, e il ragionamento è strumento peculiare del filosofo. Come no? Se ne ricava che, se per mezzo di denaro e di guadagno si dovessero perfettamente formulare i giudizi, in tal caso ciò che l'uomo avido di guadagno loda o biasima corrisponderebbe alla piena verità dei fatti. Certo, se si trattasse di giudicare con onori, con vittorie e con valore, non ne sarebbe giudice l'uomo avido di successo e ambizioso? È chiaro. E trattandosi di esperienza, di intelligenza e di ragionamento? È già. Ciò che il filosofo, cioè l'uomo amante di ragionamento, approva, senz'altro corrisponde alla piena verità dei fatti. Dunque, ci sono tre specie di piaceri, ma il piacere di quella facoltà dell'anima con cui impariamo sarà piacere soavissimo, così pure l'uomo, nel quale questo piacere è il predominio, avrà vita felice e soave. Come non sarà così, rispondeva, quando l'uomo spirituale esalta la propria vita, il suo elogio è autorevole veramente. E, secondo l'autorità di questo giudice, continuai, quale vita viene come seconda e quali piaceri pur secondi? Chiarissimo, la vita del guerriero e dell'uomo avido d'onore e di successo. Questa forma di vita è più vicina a lui che non quella dell'uomo avido di guadagno. E allora rimane ultimissima, pare evidente, la vita dell'uomo avido di guadagno. Sì, e allora? Allora si tratta di due dimostrazioni successive, e già due volte il giusto ha vinto l'ingiusto. Questa la conclusione. Poi continuai. La terza dimostrazione sarà fatta in onore, secondo il costume dei giochi olimpici, di Zeus Salvatore Olimpio. Osserva intanto. Il piacere, escluso il piacere dell'uomo spirituale, non è nemmeno un piacere vero e puro, è un piacere incipiente, un abbozzo di piacere. Così ho l'impressione di averlo sentito chiamare da un uomo che era saggio. E questo è il colpo più grande, una caduta decisiva. Sì, e di molto, ma come vuoi dire? Così, continuai, seppur mi riuscirà di trovare una soluzione. Tu del resto rispondi, e io cerco con te. Interroga. Rispondi dunque. Quindi cominciai. Possiamo certo affermare che il dolore è contrario al piacere, non è vero? Certo. E che vi è pure la condizione di chi né gioisce né soffre. Certo, lo diciamo. Essendo dunque intermedia tra i due estremi, è una condizione in cui l'anima è tranquilla, lontana dall'uno e dall'altro estremo. Non dici che così stanno le cose? Così, disse lui. E ricordi forse i discorsi che fanno gli ammalati nel corso della malattia? Quali? Dicono, certo, nulla è più bello d'una salute buona, ma aggiungono che non avevano percezione chiara prima d'ammalarsi di quanto bella fosse la salute. Ricordo, rispondeva. E così pure, se qualcuno è oppresso da grave dolore, lo senti ripetere, nulla più soave del momento in cui cessa il dolore. Sento, sì, e ci sono altri molti casi di questo genere. Gli uomini sempre ritengono bellissima la condizione di chi può sentire che il dolore scompare e che l'individuo avrà pace e riposo da questo sentimento doloroso. Non certo si riferiscono a una condizione di piacere o di gioia positiva. Certo, rispondeva, allora forse questa condizione di pace e di riposo appare soave e gradita. E quando, continuai, si sente cessare l'impressione piacevole, invece si parlerà di un'impressione sgradita e dolorosa, questa assenza appunto del piacere. Forse, rispondeva, ne verrebbe una conseguenza. La condizione di cui poco fa si disse, intermedia tra questi due estremi, la condizione insomma di tranquillità, sarà in un certo senso l'una e l'altra condizione, non solo dolore, ma anche piacere. Naturale. Ma ti par proprio possibile che non essendo né l'una né l'altra possa diventare l'una e l'altra condizione? Non mi pare. È un fatto invece che nell'anima quanto diventa impressione piacevole e così pure impressione dolorosa è un cotale movimento, o no? Sì, e ciò che non è impressione né dolorosa né gradita non ci apparve forse proprio adesso intermedia tra questi due estremi, condizione di tranquillità. Ci apparve, è un fatto. E allora, com'è possibile affermare che il non soffrir dolore sia impressione gradita e che il non soffrire impressione piacevole sia invece impressione sgradita? In nessun modo. Insomma, dissi, le cose non sono così, ma pare che la tranquillità, cioè la condizione intermedia, desti l'impressione d'essere gradita di fronte a ciò che è doloroso, e così pure un'impressione sgradita di fronte a ciò che è piacevole. Concludendo, si tratta di parvenze, nulla di concreto e di buono rispetto alla verità del piacere, una illusione continua. Così almeno rispondeva, parola di mostra. Osserva allora, riprendevo io, i piaceri che non sono provenienti da sensazioni dolorose. Non credere infatti che il piacere sia soltanto intermissione di dolore, il dolore di piacere. E dove sono? Rispondeva. E quali intendi? Ve ne sono molti, continuai, e di tipo diverso, soprattutto se consideri i piaceri dell'olfatto. Infatti, per un uomo che non ha prima senso alcuno di dolore, diventano subitamente grandi e forti, cessano e non lasciano nessun senso di dolore. Verissimo, rispondeva. Non dobbiamo dunque credere che il puro piacere sia soltanto intermissione di dolore, e neppure che il dolore sia intermissione di piacere. Eh no? Ma in ogni modo, continuai, i piaceri comunemente detti tali, quelli che attraverso il corpo tendono all'anima, non v'è dubbio i più intensi e i più numerosi, sono invece di questa specie, intermissioni di dolori. Sì, lo sono. E non è forse lo stesso quando si pregusta nell'attesa a un piacere, quando si attende una sensazione dolorosa? Tutto ciò va considerato allo stesso modo, non è vero? Allo stesso modo. Sai dunque, dissi, quale sia la caratteristica di questi piaceri e a che cosa particolarmente assomigliano? A cosa? Ritieni, continuai, che in natura ci sia alto, basso, intermedio? Sì, e credi che se si è trasportati dal basso a una zona intermedia, si possa pensare ad altro se non che si è trasportati in alto? E se si è nella zona intermedia, considerando il luogo dal quale si proviene, si crederà indubbiamente d'essere in alto, quando evidentemente non si sia veduto quello che veramente è alto. Per conto mio, penso che non si potrà formulare diversa opinione. Ma, supponi, continuavo, si viene riportati indietro. Certo, si crede di essere portati giù, e con ragione. Come no? E non è forse vero che tutto ciò accadrebbe per il fatto di non conoscere il punto veramente alto, bensì il punto intermedio e quello basso? Sicuro. E potresti meravigliarti se chi non ha conoscenza del vero ha opinioni false su tante altre cose, se rispetto poi a piacere, a dolore, alle condizioni intermedie si trova a giudicare in questo modo? La gente, quando è trasportata verso un'impressione dolorosa, formula un giudizio vero e veramente soffre. Quando invece, partendo dalla sensazione dolorosa, giunge alla zona intermedia, crede veramente di essere pervenuta al punto della pienezza e del piacere. Sarebbe come se, in confronto al nero, vedessero il grigio e non conoscessero il bianco. Alla stessa guisa, considerando il dolore rispetto alla condizione priva di dolore, in quanto non conoscono il vero piacere, pervengono a conclusioni errate. Disse lui, non mi farebbe meraviglia alcuna, anzi il contrario, se così non fosse. E allora, continuai, sta attento. Fame, sete e simili sensazioni non corrispondono forse a uno stato di vuoto nell'organismo? Certo. E ignoranza e stoltezza non sono forse uno stato di vuoto, considerando una condizione spirituale? Sì, certo. E non potrebbe forse essere addotto a pienezza chi assumesse qualche cibo, come pure chi avvalorasse la sua intelligenza? Come no? E in questo processo di riempimento, quale condizione è più vera? Quella che ha più essere in sé o che ne ha meno? È chiaro, il riempimento che ne ha di più. E quali categorie ritieni che partecipino di più alla purezza dell'essere? La categoria simile al cibo e alle bevande, al companatico e in genere la categoria degli alimenti? O non forse la categoria dell'opinione vera, della scienza, della mente e in genere di ogni spirituale facoltà e capacità? Facile ti sarà il giudizio in questo modo. Vi sono cose cui compete il predicato di essere eternamente uguali a se stesse, di essere immortali, di essere vere, appunto perché queste cose sono in se stesse uguali, immortali, vere. Inoltre, considera che nell'ordine del divenire ci sono cose che hanno partecipazione con questi predicati. Non ti sembra che le une e le altre siano vicine all'essere più di quanto per nessun modo ha partecipazione con l'eguaglianza, più di quanto è interamente mortale, e sarà esso stesso e diseguaglianza e mortalità, oppure avrà anche partecipazione con tali qualità? Senza dubbio, rispondeva, quanto partecipa a ciò che eternamente è uguale, supera di gran lunga l'altra categoria di cose. E la condizione di ciò che non ha alcuna identità con se stesso, ti pare che partecipi dell'essere più che non ne partecipi la condizione della scienza? In nessun modo. E senti, della verità? Nemmeno. E se meno partecipa alla verità, meno anche all'essere. Non si sfugge a questa conclusione. E non è forse vero che tutte le cose rivolte alla cura del fisico partecipano alla verità e all'essere assai meno delle cose pertinenti alla cura dello spirito? Sì, certo. E il corpo in se stesso considerato non ha forse partecipazione con l'essere in grado minore che non l'anima? Credo. In conclusione, ciò che viene posto in atto da plenitudine d'essere più grande e che perciò più veramente è plenitudine d'essere ha una plenitudine più completa di tutto ciò che meno ha in sé l'essere e che in grado minore è. Come no? E allora, se è gioioso essere portati alla plenitudine da tutto ciò che più s'adatta alla nostra natura, consegue che quanto diventa pieno più essenzialmente e per mezzo di elementi che essenzialmente sono, potrà farci provare più essenzialmente e più veramente gioia e godimento per un vero piacere. Ciò che invece ha partecipazione con quello che in grado minore è, meno veramente e meno sicuramente potrà essere portato a plenitudine e avrà quindi partecipazione di un piacere meno sicuro e meno vero. È conclusione del tutto necessaria, rispondeva. L'uomo dunque ignaro di ogni spiritualità, ignaro d'ogni virtù, l'uomo dedito soltanto a banchetti e a divertimenti di questo genere, in giù e poi di nuovo in su viene portato fino al punto intermedio, e così tutta la sua esistenza è un perpetuo errore. Questa gente, vedi, oltrepassando tale limite, non ha mai rivolto lo sguardo a ciò che veramente è in su, non fu mai condotta fino a questo punto. Essi non furono mai portati a plenitudine per la visione dell'essere, non hanno mai potuto gustare piacere stabile e puro. Eccoli come bruti, pupille sempre in giù rivolte, gente curva verso la terra e verso la tavola imbandita, gente curva che va al pascolo a ingrassarsi, gente che va alla monta. Anzi, per l'insaziata avidità di pascolo e di monta, suonano calci e colpi di corna. L'un l'altro si uccide con zoccoli armati e corna di ferro, cupidi, insaziati. La facoltà che conserva e che ricorda, la facoltà che veramente è, non viene da costoro condotta a plenitudine per la visione dell'essere. Davvero, caro Socrate, rispondeva Glaucone, come se tu fossi un oracolo, vai delineando la vita della gente comune. E costoro non debbono forse inevitabilmente avere sempre esperienza di piaceri commisti con dolori, ombre del piacere vero, immagini incipienti. E tali ombre, vedi, ricevono il colore dalla reciproca posizione. Per questo soltanto tali piaceri e tali dolori, gli uni e gli altri, appaiono vivissimi, piaceri che ingenerano negli stolti furibondi amori, diventando così oggetto di contese e di battaglie. Non altrimenti l'ombra di Elena, come racconta Stesicoro, divenne oggetto di contesa furibonda e di battaglia da parte degli eserciti schierati sotto Troia, che non sapevano come fosse la verità. Sì, rispondeva, pressa poco è questa la vita dell'uomo materiale. Senti allora, consideriamo la facoltà dell'impeto irascibile. Non ti sembra che si debbano verificare condizioni analoghe per l'uomo che le dia piena soddisfazione? E la molla che spinge quest'uomo sarà l'invidia, in quanto è sospinto dall'ambizione, oppure sarà la violenza, perché mosso dal desiderio di successo, l'impetuosità, perché condotto da temperamento scontroso e intollerante. Avido di plenitudine, a prescindere da ragione e da intelletto, quest'uomo persegue insomma onori, vittorie, vendette. Sì, disse lui, senza dubbio, queste conseguenze provengono da facoltà di impetuoso istinto irascibile. Ma bada a questo, dissi, dobbiamo concludere con piena sicurezza, tanto per la facoltà avida di guadagno, come pure per la facoltà avida di successo. I desideri e le passioni che si riferiscono a queste due facoltà possono farsi seguaci a scienza e a ragione e per tal modo perseguire e cogliere, con loro aiuto, quei piaceri che l'intelligenza venga indicando. In tal caso, in quanto seguaci di verità, potranno cogliere i piaceri più genuini per quanto si concede coglierne. Quei piaceri, in ogni caso, che sono propri e convenienti, perché, non c'è dubbio, quello che per ciascuna cosa è ottimo è anche conveniente in singolar modo. Oh, sì, rispondeva, conveniente. Ne consegue che se l'anima nella sua totalità obbedisce docile alla facoltà studiosa e amorosa di sapienza e non le suscita rivolta con le singole facoltà minori, ne consegue, ripeto, che l'anima può compiere il suo ufficio ed essere giusta. Così pure, d'altra parte, ogni singola facoltà potrà godere ciascuna dei propri piaceri, ottimi e, per quanto possibile, veri. Non c'è dubbio. Quando invece un'altra facoltà abbia il predominio, avviene che, intanto, non sa trovare il proprio piacere e costringe le altre facoltà soggette a perseguire estraneo piacere e non vero. Così, rispondeva. E non credi che quanto è remoto da filosofia e da ragione produca tali effetti? Sì, certo. E in modo sommo si fa remoto da ragione ciò che da legge e da ordine si fa remoto. È chiaro. E non abbiamo mostrato che le passioni provenienti dall'amore e le passioni tiranniche sono remote in massimo grado? Sì, certo. In minimo grado le passioni regali e partecipi di un cosmo. Sì. E allora, in grado sommo, il tiranno si troverà remoto dal vero e proprio piacere, l'altro invece in grado minimo, necessariamente. E si conclude, in modo assolutamente ingrato vivrà il tiranno, il re invece in modo ottimo e gradito. Certo, di qui non si sfugge. E sai allora, continuai, in qual misura il tiranno sia più infelice del re? Se me lo dirai, rispondeva. Ci sono, par naturale, tre tipi di piacere. Uno genuino, due sono tipi spuri. Ebbene, il tiranno oltrepassa il limite dei piaceri spuri in quanto fugge legge e ragione e dimora insieme a schiavi. E questi schiavi sono certi piaceri che ne costituiscono la personale milizia. Non è certo cosa facile determinare di quanto precisamente rimanga inferiore, ma forse nel modo seguente. Come? Discendendo dall'uomo oligarchico, senza dubbio, il tiranno si allontana di 3 gradi, intercede in mezzo l'uomo democratico. Sì, e non è vero allora che, se va bene la precedente conclusione, in rapporto alla verità del piacere, il tiranno dimora con la terza apparenza di esso, contando sempre dall'uomo oligarchico? Così. E l'uomo oligarchico parimenti occupa il terzo posto, ascendendo verso l'uomo regale, dato che mettiamo in unico novero l'uomo aristocratico e l'uomo regale. Sì, al terzo posto. Ne consegue, ripresi, che il tiranno è remoto dal vero piacere secondo un rapporto numerico di 3 volte 3, ovvero 3 alla seconda 9. Evidente. Questo fantasma, allora, in cui il piacere tirannico si risolve, potrà essere rappresentato con una figura piana, secondo il numero della lunghezza. Senza dubbio. Ma, invece, risulta chiaro senz'altro, adoperando la seconda potenza elevata a sua volta alla terza, cioè 9 alla terza uguale a 729, per quale distanza il tiranno sia lontano dal vero piacere. È già per uno che sia esperto nel calcolo, rispondeva. E ora facciamo il calcolo inverso. Diciamo quant'è remoto invece il re dal tiranno, se si considera la verità del piacere. Troveremo, compiuta la moltiplicazione, che esso vive, cioè 729 volte più felice, il tiranno invece più infelice, secondo uguale proporzione. Hai messo fuori un calcolo stupendo per indicare la differenza dei due uomini, il giusto e l'ingiusto, in corrispondenza a dolore e a piacere. Già, ma un calcolo giusto e corrispondente al ritmo della loro esistenza. Bisogna ammettere che giorni e notti e mesi e anni convengono in quel numero. Ma sì, rispondeva, convengono effettivamente. E se il buono e il giusto, considerando il piacere, superano in tale misura il malvagio e l'ingiusto, non ne consegue forse che anche il primo supererà l'altro per straordinaria quantità di vita ordinata e armoniosa, bella e virtuosa? Certo, concluse, di una infinita quantità. E va bene, continuai. Siamo arrivati dunque, discutendo, a tale conclusione. Riprendiamo allora i primi argomenti attraverso i quali siamo giunti a questo punto. Si diceva utile per il completo uomo ingiusto, ritenuto giusto, commettere ingiustizia. Non si disse così? Certo, così. Ora, a chi dice questo, possiamo rivolgere parola, in quanto abbiamo messo in chiaro il vero effetto dell'una e dell'altra condotta, giusta e ingiusta. Per qual modo ci rivolgeremo? Raffigureremo, plasmando con parola, una certa sembianza dell'anima. Così, chi disse tale argomento potrà capire bene quale valore abbia il suo argomento. «Quale sembianza intendi?» disse lui. «Una sembianza che, è fama, presentavano antichi mostri, la Chimera, oppure Scilla, o Cerbero, e altri molti di cui si narra che presentavano aspetti molteplici in uno concresciuti. Già, si dice così», rispondeva. «Plasma dunque un unico organismo di fiera molteplice e diversa, fornita di molte teste. Essa presenta tutto in giro teste d'animali domestici e feroci, ed è capace di tramutarsi e di ingenerare da sé tutti questi aspetti diversi». «Oh», rispondeva, «è opera degna di abilissimo modellatore. In ogni modo, siccome il linguaggio è suscettivo di esprimere più facilmente che non cera o altre sostanze, plasmiamo pure questa figura». «E quindi un'altra figura, un leone, e poi un'altra, un uomo, e molto più grande sarà la prima, più piccola la seconda». «Bene, tutto ciò», rispondeva, «è più facile, è già plasmato. Congiungi allora queste tre in un'unica figura. Potranno così insieme l'una all'altra concrescere. Sono già congiunte. E ora modella, tutto intorno a queste tre figure esternamente, l'immagine di uno solo dei tre componenti, l'immagine dell'uomo. Per chi non può scorgere la parte interna, ma soltanto scorge l'involucro esterno che tutto avvolge, l'insieme sembrerà un vivente unico, l'uomo. Il modello, all'esterno e tutto intorno, è già fatto. Ora, dobbiamo dire a chi afferma che per quest'uomo giova assai commettere ingiustizia, a chi afferma che non serve nulla praticare la giustizia, gli diremo che le sue parole si risolvono in un consiglio: dar bene da mangiare a quella prima fiera diversa e molteplice, farla per tal modo vigorosa e forte, così pure al leone e al suo seguito. Al contrario, si lascia morire di fame e si rende debole e infermo l'uomo, si lascia che venga trascinato dovunque l'una e l'altra di quelle due fiere lo condurranno. Ma più ancora non otterremo certo che i tre finiscano per conoscersi di più l'un l'altro e diventino amici. Anzi, daremo incentivo a mordersi reciprocamente, a farsi guerra e a divorarsi l'uno con l'altro. «Eh già», rispondeva, «si finisce per dir questo quando si esalta l'ingiustizia». S'afferma invece che giustizia apporti grande giovamento? Allora si dovranno dire certi discorsi, si dovranno compiere certe azioni perché in quella forma d'uomo l'interiore uomo possa riuscire vigoroso. Agiremo insomma con la belva policefala come un agricoltore. Accresceremo cioè e cureremo gli animali di mite natura, impediremo che nascano quelli di natura selvaggia e ci faremo alleata in questa lotta potenza leonina. E nello sforzo di render fra loro e a noi stessi amiche tutte quelle diverse specie di viventi, così appunto ne cureremo l'educazione. Costui dice bene, oh, esalta la giustizia. Sotto ogni punto di vista, chi tributa sua lode a giustizia dice la verità, chi esalta ingiustizia invece mentisce. Infatti, considerando il piacere, la buona fama, l'utile, chi lode ed esalta la giustizia dice né più né meno che la verità. Chi trova modo di biasimarla non dice cosa assennata e non sa nemmeno cosa stia biasimando, mentre pur continua a biasimare. Non mi pare che lo sappia. Cerchiamo dunque con buone parole di persuaderlo, ma del resto non è volontario il suo errore. Gli domanderemo dunque, beato uomo che sei, non credi che le azioni da noi ritenute belle o brutte avvengano per una ragione di questo genere? Si ritengono belle le azioni capaci di partare sotto l'impero dell'umana natura, io direi sotto l'impero di un elemento divino, le ferine tendenze in noi congenite, brutte invece quelle capaci di far serve sotto l'elemento selvaggio le facoltà nostre più miti. Ci darà ragione oppure cosa dirà? Se mi vorrà ubbidire. In conclusione, ammesso questo ragionamento, continuai, è possibile che ci sia un uomo al quale torni di vantaggio appropriarsi ingiustamente di un tesoro? Quest'uomo sa che vi è una sola conseguenza inevitabile del suo furto: rubando l'oro, nello stesso momento, la facoltà più alta che vi sia in lui rende schiava della facoltà più malvagia. Se rubasse dell'oro e nello stesso momento rendesse schiavo il proprio figlio o la propria figlia, mettendoli in mano di uomini feroci e malvagi, certo il furto non gioverebbe per nulla a quest'uomo, e nemmeno gli gioverebbe prendere a queste condizioni una enorme quantità d'oro. Se invece l'uomo, di quella che del tutto è senza Dio ed è veramente impura, fa schiava la facoltà veramente divina in lui, se nessun senso egli prova di compassione per quella fatta schiava, non sarà quest'uomo un infelice. Certo, egli accetta oro per rovina assai più grave che non erifile, la quale accetta il monile a prezzo della vita di suo marito. Certo, assai più grave rovina, disse Glaucone. Ti rispondo, vedi, invece del nostro uomo. E allora si biasima da tempo immemorabile, certo per questo motivo, l'intemperanza e la sfrenatezza, perché in tale condizione viene lasciata libera, oltre il dovuto, quella terribile, grande e multiforme bestia. Chiaro, assentiva lui. E la prepotenza, i caratteri scontrosi e difficili, diventano d'altra parte oggetto del nostro biasimo se quella forma di leone e quella forma di serpente, troppo grandi, disarmonicamente s'accrescono. Certamente. E d'altra parte, lusso e mollezza non trovano forse motivo di biasimo per un rilassamento appunto e un rammollimento della facoltà leonina quando vi si venga infondendo la viltà? Sì, e l'adulazione e la servilità trovano motivo di biasimo quando questa medesima facoltà, l'impeto cioè irascibile del carattere, viene sottoposta alla turbolenta fiera, la quale, per insaziabile cupidigia di denaro a lei innata, calpesta il generoso impeto. Dalla prima età, invece di leone, lo si fa diventare scimmia. È certo. E per quale altro motivo l'esercizio d'arti manuali e illiberali è ritenuto cosa non bella? Evidentemente perché l'artigiano ha debole la facoltà più nobile. Non può quindi reggere e dominare le fiere che in se stesso albergano. Può soltanto prestare servizio a queste fiere e può soltanto imparare i modi di accarezzarle. Naturale. Dunque, allo scopo che quest'uomo, dedito a lavori manuali, trovi un'autorità che lo regge, simile a quella da cui è retto interiormente l'uomo nobile e spirituale, affermiamo che egli deve essere servo di quella persona che è nobile e spirituale e che in sé alberga, signore e governatore, l'elemento divino. E credo che questo non debba avvenire a danno del servo, come Trasimaco affermava parlando dei sudditi, ma perché è miglior cosa per tutti essere governati da ciò che è divino e da ciò che è spirituale. Naturalmente, la miglior condizione è di chi possiede in sé propria questa facoltà divina, che, in caso contrario, dovrà essere imposta dall'esterno. Così, per quanto è possibile, tutti saremo uguali e amici, governati dal medesimo potere. Sì, ed è giusto, rispondeva. Del resto, seguitai, la legge stessa dimostra di perseguire questo intento. Essa che si presenta alleata a tutti i cittadini indistintamente nello Stato. Considera inoltre, se vuoi, con quale spirito si venga esercitando l'autorità dei più adulti sui fanciulli. Non si concede mai di essere indipendenti fino al momento in cui, nella loro interiorità, non si arrivi a stabilire una forma quasi di governo, come nella città, e a tale scopo, curandone per mezzo della nostra facoltà, la facoltà più nobile e spirituale, simile a quella in noi esistente, si cerca di instaurare in loro corrispondentemente un custode uguale e un capo, e allora lasciamo libero e indipendente il fanciullo. Sì, la legge dimostra la nostra tesi, disse lui. E come si potrà dire allora, o Glaucone, e con quale ragionamento, che è utile fare ingiustizia, essere sfrenati, commettere ogni turpe azione? In tal modo si diventa peggiori, pur guadagnando, vogliamo anche ammettere, denari molti e pur acquistando potenza più grande. Eh no, per nessun modo, disse lui. E come si potrà dire che è utile tener celata la propria colpa, che è utile non darne espiazione? Certo, chi nasconde diventa più malvagio. Invece, chi non tiene celata la propria colpa e accetta una punizione, sente che la facoltà ferina in lui s'addorme e viene fatta tranquilla. Invece la facoltà mite viene fatta libera. L'anima, nella sua totalità, posta in condizione migliore, raggiunge un più dignitoso modo d'essere, acquista un'armonia interiore e una visione spirituale. Indubbiamente, una condizione più preziosa di quella che possa acquistare il corpo quando vigore e bellezza con sanità s'aggiungono. Oh, di gran lunga l'anima è più preziosa del corpo. Non c'è dubbio, rispondeva. Allora, chi capisce bene le cose, condurrà sua vita tendendo le forze a quest'unico scopo, e intanto avrà in pregio le cognizioni capaci di rendere tale l'anima sua. Il resto, tutto dovrà sprezzare. Chiaro, rispondeva. In secondo luogo, continuai, non passerà l'esistenza ammettendo che un piacere ferino e irrazionale si renda arbitro dell'educazione e del sostentamento del corpo e non vorrà provvedere a questo piacere solo. Così pure non avrà in considerazione unicamente la salute e non avrà certo quale unico pensiero il diventare vigoroso, prospero, bello, a meno che per questo mezzo non gli si conceda anche d'acquistare temperata e interiore armonia, e l'armonia delle doti fisiche sarà sempre subordinata al fine d'ottenere un'armonia più complessa nell'anima. Oh sì, è proprio così, seppur mosaica natura è la sua. E non vorrà forse, pur acquistando denaro, che ci sia ordine e armonia in questa sua attività? Oh, quest'uomo non si lascia accecare da un carico immenso di denaro, da tutto quello che la gente ritiene elemento cospicuo di vita felice, e nemmeno accrescerà indefinitamente il proprio avere, procurandosi in tal modo una serie interminabile di sciagure. Non credo, rispondeva. Bensì, rivolgendo, continuai, lo sguardo alla sua interna città, starà anzi in guardia perché nessun mutamento avvenga nella propria interiore costituzione per il fatto che poco o molto egli possieda. Con tale criterio attenderà, per quanto può, ad accrescere il suo avere e a farne uso. Certamente, mi diceva lui, ma pur quando si tratta di pubblici onori, avrà fisso nello stesso punto lo sguardo. Degli uni tranquillo potrà partecipare e godere quelli che giudica capaci di renderlo migliore. Gli onori invece che possono dissolvere l'ordine che c'è lui, quest'uomo eviterà in pubblico e in privato. E allora, se questi sono i suoi pensieri, non vorrà saperne di attendere alle cose politiche. In nome del cielo, replicai, nella sua città interiore attenderà senza alcun dubbio a questa meta. Non tuttavia nella città che è sua terrena patria, a meno che non intervenga qualche caso particolare per volere di Dio. Capisco, rispondeva, vuoi accennare alla città che ora abbiamo fondato, quella cui parola ha fornito sua base. Oh, credo non esiste in nessun luogo sulla terra questa città. Ma forse, esclamai, l'esemplare sta nel cielo per l'anima che può scorgerlo. E in quella che lo scorge, quest'anima viene costituendo se stessa a guisa di città perfetta. E non fa nessuna differenza se questa città in qualche luogo pur sia o se un giorno sarà. L'uomo vive seguendo le leggi di questa città, nessun rapporto con qualsiasi altra egli vuole avere. Non c'è dubbio, concluse.